Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Buongiorno, e oggi, giovedì 29 agosto, ci concentreremo sul dramma della vicenda siriana, il dramma della guerra civile da una parte, la strada dell'intervento, ci chiediamo, è davvero l'unica percorribile? Quali sono le conseguenze? Quali potrebbero essere? E il ruolo delle Nazioni Unite e dell'Europa, che appaiono sempre più divise e vanno avanti in ordine sparso? Di tutto questo parleremo alle 8:30 con i nostri ospiti, cercando di tracciare una possibile alternativa e soprattutto un'analisi di quanto sta accadendo. Ce ne andremo poi sui banchi delle scuole italiane, perché tra poco saranno molto affollati, proprio così. Ci sarà un esercito di 27.000 ragazzi solo a Milano che torna in anticipo sui banchi di scuola per recuperare quelli che si chiamano debiti. Stiamo parlando di coloro che, con una terminologia un po' superata, sono stati rimandati a settembre, gli esami di riparazione. Intanto però l'OCSE punta il dito contro l'Italia. Attenzione, la bocciatura, attenzione, è troppo in voga nel vostro paese, è un trauma, costa e tra l'altro non ha nessun valore di recupero per l'individuo e riduce la competitività. Ne parleremo proprio con gli esperti dell'OCSE, che proporranno il loro modello di valutazione al passo coi tempi. Ci spostiamo ancora una volta fuori dai confini, ma rimaniamo in Europa. Buongiorno, benvenuto a Maarten Lulhof van Alderen. Buongiorno. Buongiorno. Maarten Lulhof van Alderen è il presidente della stampa. È il presidente della stampa estera in Italia. Pronuncia, correggimi pure sulla pronuncia del tuo cognome. Il mio nome è Maarten van Alderen, poi Lulhof è anche un nome di battesimo, però che non utilizzo. Ah, che non utilizzo? Van Alderen. Non lo utilizzo, mi chiamo Maarten van Alderen, questo è il mio nome. È lì come tante volte il secondo nome in italiano. Ebbene, Maarten è olandese, corrispondente in Italia per il The Telegraph, che è il principale quotidiano dei Paesi Bassi e tra l'altro è uno dei più antichi quotidiani in Europa. Sì, è anche molto antico, peraltro devo dire che sono stato molto sorpreso a sentire l'inno nazionale olandese prima, quindi pensavo, lo dico un attimo perché forse gli ascoltatori non l'hanno riconosciuto, ma poco prima abbiamo sentito l'inno nazionale olandese. Guarda Maarten, hai ragione, adesso l'avremmo sottolineato, diciamolo, il modo in cui noi accogliamo tutti i corrispondenti stranieri, questo è il dono, è il cadeau che facciamo ogni volta. Vi proponiamo, nel caso siate nostalgici, sorpresa, malati di nostalgia, noi vi accogliamo con questo inno, perché altrimenti bisogna sempre aspettare le partite di calcio per conoscersi a vicenda. Invece è importante e giusto, anzi, se vuoi dirci qualcosa di più su questo inno del 1932, se vuoi dirci di cosa parla. L'inno nazionale è molto più, cioè il testo è ancora molto più vecchio, è molto vecchio, molto antico, il testo è anche un po' particolare perché era stato scritto da un cattolico e c'era questa guerra contro gli spagnoli che è durato 80 anni in questo testo c'è scritto ho sempre onorato il re della Spagna mentre eravamo in guerra con gli spagnoli, poi c'è scritto anche nel testo sono di sangue tedesco mentre gli olandesi sono sempre stati un po' rivali nei confronti della Germania essendo un paese più grande al nostro fianco, diciamo. Quindi il testo è molto strano, molto particolare, però è rimasto comunque intatto. Quando si pensa all'Olanda si pensa sempre alle grandi città, ai grandi distretti, ad Amsterdam, a Rotterdam, e invece abbiamo scoperto recentemente che uno dei posti, forse una piccola comunità olandese, batte le metropoli per competitività, e non solo in Olanda, ma addirittura Utrecht, pensate, si è aggiudicata il primo posto in Europa per quel che riguarda la competitività. Ora, solo per fare un paragone, per contestualizzare, la regione più competitiva d'Italia che è la migliore almeno tra le italiane, è 128esima. Pensate che tipo di successo, che tipo di obiettivi ha colto questa regione, Utrecht. Com'è riuscita questo posto ad aggiudicarsi questa palma, Martin? Ma io l'ho visto questa cosa, e Utrecht è la quarta città dell'Olanda, è una provincia, sia una città che una provincia con lo stesso nome. Quello che io penso che abbia avuto un ruolo è che ormai da 20 anni sicuramente c'è stato un tentativo di integrare l'università con il mondo dell'impresa. Penso che sono riusciti molto bene a integrare questi due, e che il livello di istruzione è molto alto in questa città e nei dintorni di questa città. Quindi penso che c'entrano questo. Poi è all'inizio della cosiddetta Randstad, che è la parte più sviluppata dell'Olanda, che è la parte dell'Ovest, che inizia diciamo con Utrecht e poi va attraverso Amsterdam e poi ad Ovest, poi giù Rotterdam e Laia. Comunque è una provincia dove c'è stata sempre relativamente un po' più occupazione, un'istruzione un po' più alta. Quindi, però il fatto che addirittura è stato primo in questa, diciamo, gara di competitività dell'Europa mi ha onestamente anche un po' sorpreso. L'ha detto anche in un'intervista ieri nel Corriere della Sera un mio connazionale, che comunque non si sarebbe aspettato che sarebbe stato primo. Ma Cioè, comunque sapevano di essere mi fa forti, ma piacere lo non fino a stesso. questo Sì, punto. mi E tu dici il fa piacere lo segreto? stesso, ci ho anche studiato lì, insomma, quindi mi fa piacere, Tu insomma. dici il segreto consiste certo nella produttività, ma soprattutto nella vocazione culturale e nell'ottimizzazione dei rapporti tra università e impresa. E a proposito di scuola, oggi noi ci occuperemo del sistema scolastico italiano che prevede, per quel che riguarda le scuole superiori, gli esami di riparazione e per quel che riguarda in generale la scuola dell'obbligo, ancora il metodo della bocciatura. Ti chiedo subito un paragone con il sistema scolastico olandese, come funziona? Ma da noi la scuola si va alla scuola elementare da 6 fino a 12 anni, poi dipende come fai, come hai fatto, diciamo, questa scuola, a che tipo di scuola vai successivamente. Solo per coloro che poi vanno all'ateneo o al ginnasio e che hanno compiuto bene l'ateneo o il ginnasio, solo loro possono andare dopo all'università. Quindi c'è C'è una una selezione selezione. più, sì, molto più rigida rispetto all'Italia, dove ognuno può andare Cioè all'università. quello che ti ha colpito, È raccontavi una tu, differenza che mi ha colpito, sì. è questa possibilità al termine del corso di studi superiore di andare all'università comunque, mentre invece da voi la selezione verso chi farà una scuola che lo porterà a proseguire gli studi e chi invece farà una scuola che lo preparerà al mondo del lavoro avviene già a quanti anni? Al termine Ma del... quindi questo, A quanti anni quando avviene hai questo 12 anni? streaming? Intorno ai 12 anni. Sì, perché quando hai 12 anni allora viene scelto, diciamo, il tipo di scuola dove vai dopo, e solo se si tratta di ateneo o ginnasio puoi andare successivamente all'università. Ora puoi anche fare prima una scuola un pochino inferiore e poi continuare e andare all'ateneo successivamente. Quindi anche questa è una possibilità, che prima fai una scuola un pochino più bassa, poi fai ateneo e poi vai lo stesso all'università. Però devi prima fare quel tipo di scuola, altrimenti non puoi andare all'università. Quindi non è Quindi che c'è un sia più severo una in questo sorta di senso. verdetto definitivo che a 12 anni viene deciso per il No, ragazzo o la ragazza? no, dipende da che scuola fai, diciamo. Quindi, però il ginnasio non ci puoi mai più andare, non puoi mai andare da una scuola poi successivamente al ginnasio, però l'ateneo sì, se fai prima una scuola più bassa, diciamo, E i questo sì. metodi di valutazione che adottate quali sono? Avete i voti, i giudizi, Voti, i... voti. Bocciature, come funziona? Si ripete Beh, l'anno come in naturalmente Italia? si può essere rimandato, naturalmente, che si deve fare l'anno di nuovo o che si deve fare alcune materie di nuovo, e poi ci sono i voti, insomma, i voti devono essere sufficienti. Perfino ci sono delle facoltà che molte persone vogliono studiare, dove non basta neanche avere diploma dell'ateneo del ginnasio, dove devi anche fare un tipo di esame in cui viene guardato se tu sei abbastanza preparato, abbastanza bravo per studiare questa materia, come capita per esempio con giurisprudenza. Una mia nipote voleva andare a studiare giurisprudenza ad Amsterdam, lei faceva il ginnasio, quindi quindi aveva il diploma giusto, però lo stesso hanno fatto fare da lei un test per vedere se lei sarebbe capace di studiare giurisprudenza, e se fosse stata bocciata sarebbe stato un problema studiarlo, avrebbe dovuto studiare qualcos'altro. Per fortuna è andato bene. Tua nipote è andata bene, congratulazioni collettive. Senti Martin, adesso a parte l'aspetto scolastico, tu hai notato queste differenze tra l'italiano e l'olandese? Sei rimasto colpito da questa parte così importante poi della vita di una popolazione? Quali altri temi hai raccontato ai tuoi connazionali in Olanda, ispirato dalla vita quotidiana qui in Italia? Ma io sono corrispondente da quasi 17 anni, quindi tantissimi anni, quindi nel percorso degli anni ho scritto su mille argomenti diversi ovviamente. Abbiamo anche la possibilità di scrivere dai column, e nei column puoi scrivere... Column vuol dire editoriali, insomma opinioni, non solo fattore di cronaca. Sì, ma column appunto, in cui mettono la tua foto e puoi raccontare un po' del paese in cui ti trovi, in modo un po' più soggettivo, diciamo, e non... Cosa hai raccontato? Anche di column ne ho scritti tantissimi naturalmente. Una cosa comunque che mi ha sempre colpito un po' dell'Italia e degli italiani è un certo tipo di autolesionismo, e in un certo senso quello che mi fa piacere è che gli italiani pensano spesso che in Nord Europa e in Olanda tutto funziona perfettamente, non è sempre così, insomma, in questo senso i paesi nord europei vengono spesso molto idealizzati, questo mi fa piacere come olandese, ma a volte c'è questa tendenza di pensare che buttarsi tutto quello giù. Che è in Italia sì, un po' troppo estremo. Ci sono infatti delle cose che funzionano meglio in Olanda che in Italia, ci sono anche delle cose esempi da nominare, ma non è sempre così. E cose che funzionano meglio in Italia o che tu apprezzi di più in Italia? Dicene una prima di salutarci. Ma io dico do un esempio molto concreto. In pochi secondi, Marta. Sì, no, in un paese in Calabria dove mi trovavo quest'estate ti danno sempre alla fine lo scontrino, mentre nel paese in Olanda dai miei genitori lo scontrino in genere non lo danno. Ecco, questo è un esempio che mi ha colpito. Finalmente una voce controcorrente anche a favore della nostra correttezza fiscale, grazie. Allora, l'ultima cosa, l'autostrada fra Salerno e Reggio Calabria è meglio delle autostrade tedesche, ecco. Martin, grazie per queste segnalazioni. Idealizziamo troppo e siamo malati di autolesionismo. Non è l'unico questo corrispondente olandese, Martin van Alderlen, corrispondente in Italia per il The Telegraph, a puntare il dito contro questa tendenza italiana. Si sta per concludere il viaggio con i nostri visti da fuori. Avremo ancora la puntata di domani, poi ci saluteremo al termine di questo ciclo estivo di spunti di vista. E quindi domani concluderemo anche questo incontro con coloro che vivono qua, ma sono portatori di culture differenti e naturalmente sensibilità differenti, sguardi a volte più sagaci. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 16 banners united over the field. Where the good shepherd grieves, desperate women, divided, spreading their wings. E 34 minuti dopo le 8 è Patti Smith che ci accompagna nel tema, nella pagina che vogliamo affrontare, una pagina molto complessa e soprattutto piena di punti di domanda. Cercheremo con i nostri ospiti di rispondere ad alcuni interrogativi, almeno tracciare alcuni possibili scenari per quel che riguarda la vicenda siriana. Vorremmo sentire se anche per voi la strada dell'intervento della punizione militare verso Assad è l'unica percorribile, o invece ce ne sarebbero altre. 800 24 00 24, i messaggi SMS invece li potete mandare al solito numero 349 238 6666. Intanto buongiorno, benvenuto a Talal Krais. Buongiorno Talal. Buongiorno a voi. Talal Krais, libanese, il giornalista di Al Manar, cioè della televisione, ed è in Siria per seguire il conflitto in prima linea. Adesso ti trovi per due giorni in Italia e poi ripartirai. Da quanti giorni stai in Siria? Da quanto tempo? Io sono stato 17 volte in 2 anni, circa 140 giorni. 140 giorni e ora dunque hai seguito le ultime fasi dell'escalation, ma sai bene che in retroscena, l'entroterra era già lì, tutti gli elementi di cui oggi discutiamo da mesi tu li raccontavi senza che però nessuno ascoltasse. Tu denunci nei tuoi pezzi anche una certa volontà di non vedere da parte dell'Occidente e non solo. Ho lavorato io con moltissime colleghe italiane, da Monica Maggione a Lucia Guaracci, a tutti i vostri colleghi, e sanno benissimo, a tutti i giornali più importanti, anche France 2, anche CNN. La CNN è stata prima a denunciare che i ribelli sono stati i primi a fare esperimenti su il gas sarin 4. Io stesso con la France 2 sono stato 3 mesi fa e abbiamo visto soldati siriani uccisi dal gas sarin. Allora io dico, tutto quello che facciamo, rischiamo la vita, siamo sul fronte, sacrifichiamo, non lasciamo i nostri figli e sappiamo che andiamo e non ritorniamo, tutto quello che raccontiamo, a che cosa conta di fronte all'arroganza, a chi ha la parola più forte? Allora veramente io sono disperato come tutti i colleghi che il nostro lavoro non vale nulla. Allora se l'informazione deve diventare così, meglio che chiudiamo i giornali e lasciamo gli Stati Uniti a decidere. Quindi secondo te anche il ruolo delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, di chi potrebbe tracciare una strada diversa dall'intervento, in realtà anche di questi ispettori ONU che si trovano in Siria in questi giorni, in realtà è solo un'ispezione di facciata secondo te questa? Ma quando si viene mandata una commissione dell'ONU di ispettori e si dice che voi non dovete decidere niente, dovete solo raccogliere, poi il Consiglio di sicurezza decide, vuol dire quello che sta sul terreno, sta raccogliendo delle testimonianze, alla fine non decide niente, decideranno politicamente come sta succedendo ora nell'ONU. Poi io voglio notare una cosa, la Siria e la Russia stanno chiedendo all'ONU da 5 mesi di venire. Sono arrivati con 5 mesi di ritardo per fare questa verifica. Poi se la Siria ha chiesto all'ONU di venire, sarà solo un stupido di usare le armi chimiche il giorno che cominciano a lavorare. Lei può pensare un tempismo sospetto, dunque anche la circolazione di questi video che hanno scosso l'emotività del mondo e di queste foto che sono state tratte dal video. Gianpiero Gramaglia, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno agli ascoltatori. Gianpiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA, consigliere per la comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali, giornalista, opinionista. Hai sentito cosa dice Talal Krais? Questo tempismo sospetto in cui hanno cominciato a circolare questi video sull'utilizzo di gas. E qual è la tua opinione in proposito? Tutta la vicenda elementi di dubbio e di incertezza. Le versioni che dal terreno arrivano sono versioni assolutamente contrastanti l'una con le altre e il collega ci ha appena portato una di queste versioni, una testimonianza diretta che riflette l'opinione delle autorità siriane e che riflette anche alcuni dubbi di chi in questo momento deve prendere decisioni. Dall'altra parte abbiamo le indicazioni delle intelligence che si basano però anch'esse su, non essendo sul posto, poi si basano su informazioni raccolte magari da testimoni di parte opposta che giungono a conclusioni che sembrano incriminare o addossare la responsabilità, nonostante tutti i dubbi che il collega faceva emergere al regime siriano. Direi però che la questione è senz'altro quella di chi ha usato le armi chimiche, ma direi che c'è una certa ipocrisia occidentale nel scoprire o riscoprire dopo una fase di relativa distrazione il dramma siriano in coincidenza con questo attacco col sarin da qualsiasi parte sia venuto, perché per quanto alte siano state le vittime di questo attacco, centinaia o migliaia, le cifre anche qui sono del tutto variabili e inattendibili, sono comunque un'inezia rispetto alle decine di migliaia di vittime che tutto il conflitto ha fatto, e che i civili muoiano per mano del regime o per mano dei ribelli, per armi convenzionali o per armi chimiche, alla fine il risultato è lo stesso. Abbiamo migliaia, decine di migliaia di vittime civili. Abbiamo 5 milioni di profughi, sfollati siriani, abbiamo un dramma di un paese che è un po', ripeto, ipocrita riscoprire soltanto quando c'è lo scandalo del gas, delle armi chimiche. Di colpo adesso si parla di oscenità imperdonabile. Ci chiedono anche gli ascoltatori, ma qual è il numero di morti che siamo disposti a considerare un incidente di percorso e oltre il quale ci indigniamo? Per me nessuno, uno è anche troppo, e ce lo segnalano alcuni ascoltatori. Mario e un sms arriva dello stesso tenore anche da parte di Paola. Ora, di colpo lo scandalo, la pietra dello scandalo è stata questa diffusione di queste immagini. A proposito di immagini, oggi con noi anche il fotografo inglese Christopher Ward Jones, inglese e italiano, lavora tra gli altri per il New York Times, ma per tutte le più autorevoli testate che seguono e si occupano di politica internazionale. Io come fotografo ti vorrei chiedere oggi, Chris, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto. Dal tuo punto di vista tecnico, perché ovviamente il tuo sguardo è diverso dal nostro, potresti anche, come dire, insomma, hai una familiarità, una conoscenza dell'immagine e della tecnica. Questo video alcuni hanno messo in dubbio perfino la sua autenticità. Ti sembra genuino? Ti sembra veritiero? Senz'altro il video non è montato in modo artificiale, il video senz'altro direi è genuino. Poi cosa mostra? Io non so decidere, non ero lì chiaramente, e so però che sempre più spesso in questa era digitale accade che dei video fatti da non professionisti vengano messi in rete. È impossibile far sì che questo non avvenga, però ripeto, una cosa fatta da non professionisti è difficile poi giudicare, perché una volta questo tipo di immagini veniva poi raccontato dalla gente che aveva girato le immagini, magari tornando in patria dicendo ecco quello che abbiamo visto, per cui anche con le parole. E qui si tratta anche di immagini fatte sul campo da persone con magari telefonini che poi vengono messi in rete senza alcuna possibilità di accertare se queste cose siano reali o no. Che reazione hai avuto tu quando hai visto la scelta di tutti i media internazionali, appunto, di pubblicare queste immagini, di farle circolare? Alcuni si sono interrogati sull'opportunità di mostrare queste foto. La tua opinione, Chris? Ma la mia opinione è vale poco, devo dire, per questo tipo di azione, nel senso che non credo che un'immagine vada diffusa comunque e sempre, quello no. e non sono uno che vuole censurare le cose, però bisogna anche pensare all'effetto devastante che può avere anche sugli occhi e sui bambini, magari che vedono queste immagini senza una spiegazione da parte di adulti. È chiaro che è un video molto forte, vedere dei bambini che si presuppone siano morti in situazioni orribili, non è mai facile vedere queste cose, e appunto non credo che bisogna sempre far vedere tutto e comunque. Ricordo che una volta queste immagini non venivano viste e la gente, vedendo un'immagine, magari come ricordate delle immagini del Vietnam che sono uscite, ogni tanto un'immagine cambiava la reazione della gente riguardo tutto un conflitto anche. Adesso c'è il pericolo che tutte queste immagini prodotte ogni giorno leniscano l'effetto dell'immagine stessa, cioè che la gente si abitui quasi. Si abitui, che venga assuefatto alle cose orribili come nei film horror, che ormai devono essere sempre più forti per avere la reazione della gente. La tua sensibilità è molto particolare. Ora vogliamo sentire anche un altro ospite oggi con noi, il dottor Francesco Aquilar, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Aquilar, per chi lo conosce, uno psicologo e psicoterapeuta. Ebbene, sul sito dell'ENAM, cioè vale a dire l'Associazione Europea per la Negoziazione, per la Mediazione, è possibile trovare proprio una recensione del suo libro, del suo metodo, che sembra suggerire, e questo è naturalmente l'augurio anche di chi ha preso una posizione decisa nei confronti di un'alternativa all'intervento militare, penso al ministro degli esteri italiano, penso alla Germania, sembra suggerire una possibilità ancora esistente per una mediazione, per una trattativa. Ci si può sedere al tavolo e capire quali strade percorrere insieme. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. The truth is, the British people have seen this movie. They know how it ends, and that's why the public is 2-1 against bombing Syria. I think it ought to be difficult for any MP to support military action which is actually illegal, and it's not clear. E queste sono parole durissime pronunciate da un ministro all'opposizione, stiamo parlando di Diane Abbott, il ministro inglese, che dice: il pubblico in realtà lo sa come andrà a finire e deve essere difficile per ogni membro del Parlamento inglese votare a favore di questo intervento, possibilità di intervento militare, perché in realtà questo è un film che abbiamo già visto, e per questo nel pubblico 2-1 sono contrari a un eventuale intervento armato. E quindi si delinea anche un'altra realtà, quella del governo da una parte e della popolazione dei paesi. Sarebbe interessante anche sentire cosa succede in Francia di fronte alla posizione presa dal volenteroso Hollande, assolutamente di intervento senza nemmeno aspettare, diceva qualche giorno fa, che l'ONU si pronuncia. Tanto ormai è troppo tardi anche per raccogliere prove sul campo. Dall'altra parte, coloro che invece spingono, poi bisognerà vedere e determinare quale peso abbiano, per una negoziazione, per una trattativa. Dottor Aquilar, dicevamo, a questo punto, in questa fase, è ancora possibile dunque una retromarcia? Probabilmente sì, e sono anche i risultati delle ultime dichiarazioni del presidente Obama. Molte volte che fanno sperare, dichiarazione... lei dice. Prego? Che fanno sperare che si possa che andare ancora sperare. In questa direzione, che magari gli ispettori dell'ONU con la loro relazione, chi lo sa, gli tolgano le castagne dal fuoco. O semplicemente di intervenire sul tavolo negoziale, avendo lanciato anche questa minaccia, nella speranza che questo induca la controparte ad accettare una forma di negoziazione. Sicuramente in questo momento le diplomazie internazionali staranno facendo quella che in gergo si chiama back channel communication, cioè la comunicazione dietro il canale ufficiale. Il canale ufficiale serve solo per influenzare questa possibilità in senso positivo ed è facilmente comprensibile da parte di tutti come una soluzione negoziale, laddove si deve negoziare anche con persone che a volte potrebbero non piacerci, potrebbe essere una cosa tale da risparmiare migliaia di morti. Migliaia di morti che continuano a sottolineare gli ascoltatori ci hanno lasciato indifferenti fino a questo punto. Perché ora? Perché interferire ora e in questo modo? E poi attenzione puntata anche sui drammi, oltre alle vittime, i drammi di milioni di persone che si trovano, pensiamo al Libano che ne accoglie il maggior numero, sto parlando naturalmente dei rifugiati, pensiamo all'Egitto, situazioni dunque e esistenze completamente devastate di cui non ci siamo fatti carico fino a questo punto. E la negoziazione, il canale ufficiale da una parte e il back channel, chissà cosa sta succedendo. Abbiamo tra l'altro anche da qui a breve, Gian Piero Gramaglia, l'incontro Putin e Barack Obama in occasione del G20. Anche questo è un appuntamento piuttosto importante al quale bisogna presentarsi senza che si crei grande imbarazzo per entrambi. Cosa succederà? Cosa succederà quel 5 settembre e prima di quel 5 settembre? Una strada percorribile per Obama, un intervento prima di quella data? A me sembra che, visti gli sviluppi di ieri, siamo almeno a un colpo di freno dell'iniziativa militare, perché abbiamo troppe scadenze, ci sono troppe scadenze nei prossimi giorni che indicano la difficoltà di lanciare un'azione ora. Scadenze parlamentari per i paesi interessati, oggi la Gran Bretagna, oggi negli Stati Uniti un incontro tra Casa Bianca e Congresso, il 4 settembre, la prossima settimana, la convocazione dell'Assemblea Nazionale Francese e poi, come ricordavi, il vertice del G20, cui non credo che Obama possa presentarsi. Il vertice si svolge in Russia, a San Pietroburgo, quindi a casa di Putin, possa presentarsi in una situazione di aperto conflitto con la Russia, possa e voglia presentarsi in una situazione di aperto conflitto con la Russia. D'altra parte, questo può alimentare ulteriori speranze che alla punizione militare del regime siriano non si arrivi. D'altra parte, più passa il tempo, più l'ondata emotiva che avrebbe forse, l'ondata emotiva di quelle immagini che tu evocavi prima, che avrebbe forse attenuato nelle opinioni pubbliche la contrarietà all'azione militare, si attenua e quindi quella che adesso potrebbe apparire o nei giorni scorsi poteva apparire come una reazione a caldo suscitata dall'emozione di quelle immagini diventa sempre più una reazione a freddo calcolata, e in quanto calcolata poco spiegabile, perché non se ne capisce l'impatto pratico, se non quello di rischiare di esasperare le tensioni e rischiare anche in un'area così delicata e così facilmente infiammabile, tra l'altro già in fiamme dall'Egitto al Libano alla Siria, di scatenare reazioni poi difficilmente controllabili. Reazioni, effetto domino che potrebbero avere questa volta una valenza anche superiore a quello che si teme. Questo è un aspetto che l'Occidente, tal al-Qaeda, sembra sottovalutare. Ora, immaginando veramente la possibilità di un intervento da parte degli Stati Uniti e dell'AS che si unirebbe agli Stati Uniti, inglesi, francesi e anche la Danimarca, cosa accadrebbe sul fronte medio orientale immediatamente nel breve termine? Molto bene la Siria, che ci sono anche rapporti familiari, relazioni storiche, ci sono 20.000 esperti russi in Siria e se loro sanno molto bene se il presidente Assad ha usato le armi chimiche Eh no, oltre alle nostre testimonianze, oltre a Del Ponte, in Siria oggi ci sono combattenti da 84 paesi sono venuti e 1300 organizzazioni armate sono. Io non lo so con chi si tratta dopo. Perché cioè tu stai dicendo che il fronte dei amici... ribelli, quelli che sono dipinti come ribelli autoctoni, diciamo, frutto della ribellione interna al regime di Assad, in realtà... Al-Qsair, io sono stato al Qsair, sì. 90% dei combattenti erano stranieri. Dal Dagestan, dalla Cecenia, dall'Europa, dall'Africa, 84 paesi. Molti siriani cercano di arrendersi o dialogare con il regime, vengono uccisi perché questi gli dicono: noi siamo venuti per il jihad da voi, per aiutarvi, e voi vi rassegnate. E questo allora, apre ulteriori interrogativi su quelle che sarebbero le conseguenze sullo scacchiere medio orientale di un eventuale intervento armato. Ne parleremo tra poco, Talal, perché subito. È arrivato il momento del collegamento con le notizie, il giornale radio, e poi ci ritroveremo insieme con la tua risposta e le opinioni anche dei nostri ospiti. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Vi ricordate i cormorani del Golfo Persico che erano ricoperti di petrolio? Altra immagine forte, il risultato era una bufala. Questo ci segnala uno degli ascoltatori. Ancora buongiorno, Irene Zerbini. 7:07, la vicenda siriana. Ci stiamo interrogando e sono emersi fino a questo punto alcuni nodi certi. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, la Danimarca stanno dibattendo anche all'interno delle loro, diciamo così, opinioni pubbliche, visto che sono diverse le voci, non è mai monolitica la posizione di questi paesi sulla questione morale e legale di un eventuale intervento anche sotto l'egida dell'ONU, perché ci sono dubbi anche in questa con questa eventualità. Naturalmente si attende la relazione degli ispettori, ma d'altra parte sono moltissimi gli interrogativi sulle conseguenze. Ci chiede ancora un ascoltatore: chi sono questi ribelli del regime di Assad? Sono veramente siriani? E se vincessero loro, che fine farebbe la popolazione? A questi interrogativi ha risposto in parte il testimone sul posto oggi nostro ospite, Talal Krais, visto che è un giornalista che ormai da sette mesi si trova in Siria e ha raccontato. Sono 84 paesi quelli a cui appartengono questi ribelli, ovviamente mercenari. Talal, ti abbiamo lasciato in sospeso, scusaci, ma era necessario il collegamento con il GR, con l'aggiornamento, con le notizie. Dunque, stavamo parlando di questo conflitto che tu osservi in prima linea, a differenza di tanti altri giornalisti, e le tue conclusioni sono piuttosto inquietanti e preoccupanti, perché quali sarebbero le reazioni immediate e dell'Iran e di tutti i paesi medio orientali in caso di attacco? Allora, vi dico una cosa, comincio dalla fine. Questa guerra fatta nei confronti dell'Iran, perché c'è un fronte, cosiddetto fronte della resistenza, che comprende l'Iran, una parte dell'Iraq, una parte dei sciiti libanesi e Hezbollah. Allora, il punto più debole di questo fronte era la Siria. Io non penso che gli iraniani aspetteranno il loro turno guardando così la Siria. Io penso se oggi il punto più delicato è Israele, perché questi non potranno colpire gli Stati Uniti. Io secondo me appena cominciano a lanciare razzi sulla Siria le risposte saranno contro Israele. Vi lo assicuro questo perché conosco come lavora questa gente, come pensa questa gente. Allora, se questo fronte creato per contestare l'occupazione israeliana, per dare sostegno ai palestinesi, e l'Occidente purtroppo tutto quello che le interessa è la sicurezza di Israele, invece di cercare una soluzione per dare un vero Stato ai palestinesi. Allora, se il punto è quello di colpire l'Iran, l'Iran non si metterà a guardare. Un'altra cosa, la Russia non è più la Russia del 92 stremata, la Russia è il paese più ricco al mondo, ha disegnato i suoi confini geopolitici. I suoi confini arrivano nel Mediterraneo. Quando la Russia destina 85 miliardi di dollari per la sua marina, significano che non rimarranno nel Mar Nero. E quindi quello che tu stai evocando è una situazione in cui di fronte a un eventuale attacco non solo ci sarà un aggravio ulteriore, ma un vero e proprio effetto domino con l'intervento. Un'ascoltatrice ci segnala: temo la terza guerra mondiale. Ti sembra un tono esagerato? No, una terza guerra mondiale non ci sarà, ma basta buttare 3-4 mine nello distretto di Hormuz. Entra la crisi energetica internazionale, gli iraniani non staranno a guardare, credetemi, Hezbollah non starà a guardare perché arriverà il suo turno, perché appena si indebolisce la situazione in Siria, il fronte interno in Libano comincia la sua battaglia, non dimentichiamo. Tu vai tra l'altro in Libano, viaggi tra i due paesi quasi quotidianamente, perché ricordiamolo, il confine, quanto dista Beirut per esempio dal confine? Sono 110 chilometri. 110 chilometri, un'ora di macchina, possiamo dire un'ora e mezza? Sì, con il confine ci vuole un po' di 2 ore, però 2 ore si arriva a Damasco. Per i posti di blocco, poi tra l'altro che in questi giorni ci sono, perché la situazione anche in Libano è di grandissimo terrore, grandissimi sì. Controlli. Talal, facciamo parlare anche gli ascoltatori. Laura, buongiorno, pronto? Signora, buongiorno, sì. Saluto tutti. Sì, Laura, venga al punto. Sì. Il giornalista ha detto che gli spettatori televisivi oppure radiofonici rimangono indifferenti perché non facciamo altro che vedere e sentire questi orrori della guerra. Sì, era il suo timore, il timore era che immagini troppo forti poi in qualche modo anestetizzassero la sensibilità. Aspetti, signora, grazie. Quando c'è stata la guerra nell'Iraq, io ho visto un soldato morto in posizione imbarazzante. Io sono pudica e non penso che lei abbia capito come. Dunque sono passati gli anni, io sono profuga istriana, la guerra la sento ancora sulla mia pelle e l'angoscia e la paura mi prende di notte quando sento, vedo che ci può essere una guerra e a dire il vero soffro di insonnia, poi per fortuna mi tranquillizzo. Grazie. Grazie, no, siamo sensibili. Grazie. Sì, grazie, ha fatto bene a sottolinearlo, quindi non ci sarebbe nel pubblico questo rischio assuefazione, anzi Laura, la signora Laura si è sentita colpita, quasi offesa, vista anche la storia personale che ha vissuto dal fatto che si sia nominata questa possibilità di insensibilità. Attenzione allora, diamo il Nobel ad Assad come paladino della democrazia e della libertà, chiede qualcun altro al 349-238-6666. Quindi non intervenire equivale allora ad avallare ciò che il regime sta facendo, Gian Piero Gramaglia? Il Nobel ad Al-Assad non lo diamo di sicuro, ma forse potevamo non darlo neanche preventivamente, come abbiamo fatto a Barack Obama. Non perché Obama stia necessariamente sbagliando in questa situazione, anzi fa ancora in tempo a fare la cosa giusta, ma perché i premi è meglio darli una volta che li si è meritati e non sulla fiducia come è stato fatto per il Presidente degli Stati Uniti nel 2009. Ma in pratica chiede questo ascoltatore, Gian Piero, non intervenire significa, di fatto questo è il senso, allora diamo il premio Nobel ad Assad, significa avallare, cioè è l'unico modo in cui l'Occidente e l'Europa possono dimostrare di avere un peso, influenzare la situazione e quello che sta accadendo in Siria? La domanda ha senso, ma va accompagnata dal fatto perché intervenire oggi e non intervenire prima, se l'intervento è l'unica soluzione. Intervenire, secondo me, non è una soluzione, tant'è vero che gli stessi fautori dell'intervento spiegano che non sarebbe un intervento decisivo, non sarebbe un intervento decisivo per rovesciare Al-Assad, non sarebbe un intervento decisivo per favorire la vittoria dell'opposizione, sarebbe solo un gesto punitivo e questo è un linguaggio che mette a disagio, come pure mette a disagio, se mi permetti, il linguaggio di cui si è fatto portatore, non che fosse il suo, ma lui lo riferiva, il linguaggio di chi dice non intervenite perché sennò noi scateniamo l'apocalisse, cioè è un ricattare o comunque affermare la propria impunità perché sennò si fa peggio. Non è neanche questo un discorso accettabile in un contesto internazionale. Bisogna cercare, e mi pare che molte voci in questo senso si stanno levando anche in Europa, dal ministro Bonino, dalla Germania, bisogna cercare una soluzione politica, una soluzione negoziale all'interno della Siria, appare difficile, una soluzione politica concordata in seno internazionale, facendo giocare il suo ruolo pienamente alla Russia, ai paesi della regione, all'Iran certo, ma anche all'Arabia Saudita, è forse l'unica soluzione possibile. Grazie, grazie Gian Piero Gramaglia. Dottor Aquilar, esiste forse una terza via al di là dell'intervento o dello stare alla finestra? Certo, e la terza via è quella della negoziazione. L'ascoltatore diceva prima, diamo il Nobel ad Assad, se servisse a modificare la situazione dal punto di vista negoziale, perché no? In realtà tutti gli studi di psicologia della negoziazione ci suggeriscono che il modo migliore per far funzionare una negoziazione è allargare la torta, cioè cercare non soltanto di tenere presenti le esigenze economiche, religiose, antropologiche e purtroppo anche di potere dei vari gruppi, ma cercare di consentire una creatività negoziale che dia a ciascuno una piccola cosa affinché possano ridursi i conflitti. La strategia della negoziazione ad oltranza, incluse anche le minacce che a volte influenzano questa stessa negoziazione, potrebbe essere una soluzione, ma ovviamente lei segnalava nei suoi scritti anche la presenza di voci che vanno oltre il conflitto e la divisione sunniti-sciiti anche in Medio Oriente e suggeriva di dare potere, sostenere queste voci. Di chi parlava? Certo, parlavo di soprattutto di un gruppo che si chiama La Terza Voce, che è nato in Libano e che contiene al suo interno anche psicologi, psicoterapeuti, cognitivisti e comportamentali, che lavorano per modificare le convinzioni e i comportamenti delle persone con i principi appunto della psicoterapia scientifica e che sono molto attivi cercando di porsi al di là delle questioni e dei conflitti che normalmente ci sono. Questo gruppo per esempio stasera a Biblos organizzerà, malgrado tutta la situazione di allarme nel Medio Oriente, un incontro per favorire la possibilità di soddisfare in maniera graduale le esigenze di tutti. Tutti dovrebbero rinunciare ad un pezzetto della loro esigenza per ottenere un'azione popolare più efficace. È ovvio che in questa situazione ci sono invece i gruppi di potere, i gruppi economici che possono spingere verso soluzioni meno, tra virgolette, etiche, ed è questa la partita che si sta giocando. Grazie, grazie al professor Aquilar. Giancarlo da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io dico semplicemente che bisogna cercare di fermare questo intervento, perché qui si ripresenta un po' la prospettiva come appunto l'Iraq. Sono quelle guerre dell'America, sono quelle guerre di Israele, che comunque loro vogliono eliminare l'Iraq, vogliono eliminare l'Iran, vogliono praticamente dominare tutta la zona e che coinvolgono tutti purtroppo, e le conseguenze le paghiamo tutti e le stiamo già pagando, perché comunque in Iraq, nonostante loro abbiano fatto la guerra, la situazione è sempre critica, ci sono attentati, ci sono disordini, la pace e la democrazia non c'è, è solo questione politica legata al petrolio, legata ai loro interessi, di Stati Uniti e Israele, sono due paesi pericolosi per la pace, sono due paesi pericolosi, e il bello è che nessuno li ferma più, perché gli Stati Uniti spendono 370 miliardi all'anno per gli armamenti, come fa un paese così voler la pace? Scatena le guerre, guerriglie, colpi di Stato. Le armi poi vanno utilizzate, insomma, dice lei. Grazie Giancarlo, c'è una pressione naturalmente anche delle lobby di chi queste armi le produce, ora sono moltissimi coloro che ci chiedono cosa vuol dire, e lo chiedo a te Talal Kreis, cosa vuol dire che siano mercenari? Spiegaci meglio chi sarebbero questi ribelli attivi in Siria. Allora, io dico una cosa, sono dei jihadisti che sono arrivati da tutto il mondo proprio, con il finanziamento saudita. Io poi non capisco perché l'Occidente ci tiene molto alla democrazia in Siria, che è un stato laico, e non parla proprio di questi principi, di questi regni che loro governano senza costituzione, senza diritto, uccidono, tagliano le teste alle persone. Io non riesco a capire, e io non riesco a capire come tutto il petrodollari contro Assad, mentre che questi paesi violano i diritti dei lavoratori, uccidono le persone, le donne vengono sgozzate. Ma non riesco a capire. E si sta tranquillamente alla finestra. Insomma, in parte la risposta l'hai data tu, il vero obiettivo dietro questi proclami di ancora una volta esportazione della democrazia sarebbe l'Iran, e sono altri gli interessi nel Golfo a muovere la volontà interventista di chi in questi giorni si è proclamato tale. Intanto i costi sociali del conflitto in una Siria già allo stremo parlano di 2 milioni di rifugiati, sanità al collasso e grandissima sofferenza per la popolazione civile. Tornerà Radio 24 sempre a aggiornarvi su questi temi. Grazie a Talal Krais, grazie a Francesco Aquila, a Giampiero Gramaglia e a tutti voi che avete partecipato. Ora voltiamo pagina e torniamo in Italia. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Vicenda drammatica, una risposta vera raccontata in questa canzone data da una ragazza, da una adolescente che si era macchiata forse del peggiore dei crimini, cioè una sparatoria in una scuola. Interrogata dagli inquirenti, rispose: non mi piace il lunedì. Lo shock, insomma, fu abbastanza pesante, ma tracciava questo stato di disagio psicologico che spesso attraversano i ragazzi. Suona quasi incomprensibile per noi, e proprio dallo stato psicologico e dalla possibilità di valorizzare anche dal punto di vista della competitività di un paese sono partiti gli esperti dell'OCSE per fare un esame agli esaminatori, proprio così, cioè per capire chi esamina, che modello di valutazione adotti e soprattutto se questo modello di valutazione poi si rivela essere all'altezza dello scopo che si prefigge. Ebbene, uno studente su tre, tra pochissimo, si presenterà agli esami di riparazione, una media altissima per quel che riguarda le scuole superiori italiane. È un esercito di 27.000 ragazzi solo a Milano, pensate, che torna in anticipo sui banchi di scuola per recuperare debiti, si chiamano così. Allora, da una parte ci sono i giudizi rigorosi, ma anche il provveditore dice: attenzione, l'approccio dei professori sia sempre di umanità, fate estrema attenzione, queste sono psicologie molto fragili e è importante stimolarli, ma non umiliarli, non reprimerli. Alex Corlazzoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Radio 24, buongiorno ai radioascoltatori. Lei è un maestro, tra l'altro ha scritto molto di scuola, perché prima di fare il maestro, nella reincarnazione precedente, diciamo così, era un giornalista. E qual è la sua opinione, Alex, su questa pratica della bocciatura? Lei innanzitutto dove insegna, dove esercita, in quale grado, in quale scuola? Intanto io sono alla scuola primaria, quindi alla scuola che getta le basi del percorso umano dei cittadini, e in questo momento sono insomma un clochard della scuola, come definisco io, perché non ho una scuola, non ho un tetto, ho insegnato fino a giugno, ma essendo un precario sono in attesa di questa santa convocazione che è stata spostata da oggi pomeriggio a domani, quindi siamo qui in attesa. Ma certo, ecco, dimentichiamo per un attimo il problema dei precari e di voi insegnanti, perché ce ne siamo occupati varie volte e non per metterlo in secondo piano, ma perché vorremmo concentrarci sui metodi di valutazione adottati nelle scuole, sui ragazzi, sugli studenti, sul fatto di rimandare e sul fatto anche di bocciare. Non solo perché, secondo alcuni psicologi e psicoterapeuti, la bocciatura è un trauma che non porta a risultati. Cioè, c'è chi dice che il vecchio sistema, vecchio, veramente è ancora attuale, cioè far ripetere l'anno scolastico serva, sia di beneficio al ragazzo magari svogliato, che non si è impegnato a sufficienza. In realtà, dice l'OCSE, rafforza semplicemente le diseguaglianze. Lei cosa ne pensa? Ma io provo la mia esperienza sulla pelle, insomma, perché spesso bocciare un ragazzo è un modo veramente di penalizzare l'alunno, ma anche in qualche modo di peggiorare i risultati della classe, perché si viene a perdere anche degli elementi che non sempre sono considerati dagli insegnanti, a volte di disagio, sono considerati elementi devianti, ma non è così. Nella classe c'è una sorta di serenità che si crea tra i ragazzi, che è da comprendere, bisogna entrare. Noi abbiamo una scuola purtroppo ancora all'antica, veramente una scuola all'antica. Nelle scuole addirittura si boccia nella scuola elementare. Già Don Milani, nel suo lettera a una professoressa, proponeva di non bocciare le elementari, e nel resto dell'Europa, in alcuni paesi, non si boccia elementari. Io ho visto ragazzi e ho fermato alcune bocciature, perché fortunatamente si può, insomma, perché ci deve essere l'equipe pedagogica nel suo complesso che dice sì, bocciamo questo ragazzo, quindi basta una sola persona che dice no e quindi viene fermato questo processo di bocciatura. Ma vedere questi ragazzi che vengono fermati significa davvero perdere la loro fiducia, che soprattutto in una scuola che l'anno dopo non è in grado di fornire a questi ragazzi gli strumenti per superare. Sarei anche, cioè, lei, d'accordo. Ho capito, ho inteso bene. Lei sarebbe anche d'accordo a utilizzare questo metodo se poi successivamente, nel successivo anno scolastico, si intervenisse per aiutare questi ragazzi di cui si è constatato il deficit. Certo, tenga conto che, per esempio, se viene bocciato Mario in prima elementare, l'anno dopo avrà ancora quegli stessi insegnanti, cioè il numero stesso di insegnanti, non avrà un percorso di sostegno alla sua inadeguatezza, ma sarà ancora nelle stesse condizioni di prima, perché questa scuola italiana non investe sul recupero di questi ragazzi. Basti pensare che noi abbiamo un tasso di dispersione scolastica terribile del 17,6, è il dato del 2012, mentre nel resto dell'Europa abbiamo il 12,8%. Bocciare la scuola elementare o bocciare la scuola media significa che questo ragazzo sarà inevitabilmente uno di quelli che prima o poi abbandonerà questa scuola. Non è un caso, forse, poi... Alex, la sento molto appassionato e lo siamo anche noi, infatti continueremo a parlarne fino alle 10. Ci lasciamo per una breve pausa, vogliamo al termine di questa pausa sentire anche la vostra opinione all'800 24 00 24. La bocciatura è un retaggio del passato e in realtà non porta benefici a nessuno, o invece è una pratica salutare che serve a stimolare? Voi come la pensate? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Uno studente su tre agli esami di riparazione. Attenzione, perché c'è anche una lettura diversa di questa percentuale altissima di rimandati. Infatti il provveditorato, qui stiamo parlando di Milano e di Lombardia, spiega che questo boom di rimandati sarebbe la conseguenza della diminuzione delle bocciature. E allora buongiorno, ancora 32 minuti dopo le 9, io sono Irene Zerbini e con voi, con i nostri ospiti, stiamo discutendo di uno studio dell'OCSE, di un approfondimento dell'OCSE, che vuole forse dare un elemento in più alla classica diatriba tra genitori, alunni, professori. Infatti dice l'OCSE, l'Italia è una delle nazioni europee in cui c'è più sperequazione tra voti attribuiti dagli insegnanti e saperi reali, perché i docenti, nella loro imparzialità nell'attribuire i voti agli alunni, favoriscono le ragazze e favoriscono i ceti alti. Attenzione, ne parliamo subito con Francesca Borgonovi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Francesca Borgonovi, la portavoce per e analista alla direzione dell'istruzione dell'OCSE, dunque l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. E lei è autrice dello studio sulle pratiche di valutazione, sui voti a scuola. Cosa avete rilevato, Francesca? Abbiamo rilevato una serie di questioni. La prima è, come diceva lei, che in Italia rispetto ad altri paesi c'è una differenza maggiore rispetto a quanto i voti dati dagli insegnanti, come riportati dagli studenti, siano correlati con i saperi che il test PISA va a misurare. Quindi bisogna fare una precisazione, noi andiamo a valutare quanto i voti dati dagli insegnanti corrispondano in un certo senso alle capacità che noi andiamo a misurare con il test PISA. E si chiama PISA? Si chiama PISA, spieghiamolo un attimo, questo test appunto condotto dall'OCSE, se non sbaglio è lettura matematica e scienze o ci sono anche altre materie prese in esame? Prevalentemente lettura matematica e scienze è un test comparativo a livello internazionale, viene fatto in circa 60 e più paesi al mondo, dipende a ogni ciclo, questo varia, e ogni 3 anni si va a valutare in maniera estremamente precisa le competenze dei ragazzi in un'area specifica. Nel 2009, l'anno a cui si riferisce lo studio che abbiamo svolto, si riferiva alle capacità di lettura e comprensione di testi. E quindi avete rilevato, svolgendo questo test PISA, praticamente esaminate chi esamina, cioè esaminate le scuole, che forse più che un pollice verso nei confronti di bocciatura o promozione, quello che non va è il sistema di valutazione, quello che andrebbe aggiornato è il sistema di valutazione, cioè il voto non corrisponde poi sempre a quello che i ragazzi hanno effettivamente acquisito o non acquisito. Esatto, in alcuni paesi, non solo l'Italia, comunque c'è una differenza anche abbastanza marcata e come lei diceva in Italia, così come in altri paesi, gli insegnanti tendono a dare dei voti maggiori alle ragazze e ai ragazzi che vengono da ceti più abbienti. Questo o più istruiti, può voler dire, insomma. Cosa? O più istruiti, cioè più che una cosa classista, è un atteggiamento inconsapevole forse degli insegnanti verso ambiti socio-economici meno disagiati. Ma può essere anche semplicemente che quello che noi valutiamo nel test PISA sono delle competenze molto specifiche, quanto gli insegnanti valutino delle altre competenze che sono comunque importanti per progredire a scuola, così come poi nel mondo del lavoro, e che per ragione, ad esempio, perché i ceti più abbienti hanno magari dei genitori che hanno un livello di istruzione maggiore, per cui hanno delle capacità diverse in altri ambiti, oppure le ragazze tendono a essere molto più diligenti dei ragazzi, gli insegnanti potrebbero valutare in maniera positiva questi aspetti, che in realtà però non dovrebbero rientrare nella valutazione della preparazione dei ragazzi direttamente. Grazie Francesca. Sentiamo anche gli ascoltatori, sono molti quelli che si stracciano le vesti nel sentire l'abolizione o l'eventuale rimozione della possibilità di bocciare. In realtà in molti stati in cui il sistema educativo è più che idoneo non si boccia, ma non perché non ci sia una valutazione e vadano avanti tutti, ma perché la selezione, diciamo così, viene fatta con altri metodi che non comprendono quello di far ripetere l'anno e pedagogicamente mettere il ragazzo nella condizione di sentirsi umiliato perché proseguirà gli studi con ragazzini più giovani. Secondo gli studi poi portati avanti dall'OCSE in altri ambiti che hanno seguito i ragazzi bocciati nel corso degli anni successivi, è stato verificato che in realtà non c'è nella maggior parte dei casi un recupero. Per cui è ovvio che valutazioni si adottino in tutte le parti del mondo, ma sono valutazioni che si basano su principi diversi. Comunque sentiamo anche voi, 800 24 00 24, devo invitarvi a parlare in sintesi per lasciare la possibilità al maggior numero possibile di ascoltatori di dire la propria. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Alessandra. Io volevo dire questo, io insegno all'università. Sì. E ogni anno mi trovo al primo anno una serie di persone che appunto frequentano dei corsi di primo livello. Io non voglio entrare nel merito, cioè diciamo non ho un'idea precisa su quale possa essere un sistema buono o meno buono, perché francamente appunto ci sono varie discussioni e lasciamo perdere. Però quello che vorrei far osservare è questo: io mi ritrovo spesso e volentieri con persone che sono uscite dal liceo, anche qui con valutazioni a volte anche abbastanza simili, ma naturalmente provenienti da aree geografiche e culturali diverse, persone che non sono in grado di scrivere in italiano e che ciò nonostante sono state fatte arrivare fino all'università, persone che non sono in grado di leggere un testo e di capirlo e che nonostante questo si iscrivono all'università. E allora io mi domando solo: ma ha senso diciamo formare le persone in questo modo, farle arrivare a un percorso universitario per poi in quando ci sono lacune farle... lei dice lacune, ma non sto parlando di piccole lacune, cioè io le faccio un esempio: su una mia classe il 30% di frequentanti il 30% passa l'esame al primo colpo, un 50% lo passa al secondo colpo, poi mi rimane una percentuale che per cui l'esame deve essere ripetuto, follia peraltro solo italiana, perché ho insegnato anche all'estero non funziona così, a volte anche 3-4, mi è capitato persino 6 certo. volte. Grazie, allora, grazie ecco, professoressa, questo, mi sembra prego. Molto chiaro quello che lei mette in evidenza. Ora, sia per sgombrare il campo da equivoci, eliminare la bocciatura non significa viziare i ragazzi, far crescere i ragazzi nella bambagia, permettere che tutti poi facciano quello che vogliono nelle aule scolastiche. Per esempio, anche stamattina è stato tracciato dal nostro ospite corrispondente olandese un metodo diverso, in cui ci si fa una selezione attitudinale quando si arriva ai 12 anni, per cui si frequenterà una scuola oppure un'altra. Ancora altrove, nei paesi anglosassoni, per esempio, per avere la cosiddetta maturità, tra virgolette, o l'equivalente alla maturità, lo studente sceglie un percorso di credits che poi andrà a raccogliere nelle varie aule. Se non avrà raggiunto quel numero di credit, non avrà il diploma liceale, chiamiamolo così, tanto per dare un'indicazione di massima, ma si impegnerà e dovrà recuperare quella materia, non ripetere l'anno. Sono modalità completamente diverse, ma certo non più indulgenti. Federico, buongiorno, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Lei chiama da Bologna, dica velocemente. Da Bologna molto velocemente, sì. Solo perché ritenevo appunto ascoltandovi che la bocciatura non sia una grande soluzione in effetti. Non perché sia mai stato bocciato, ma perché ragionando appunto mi pare che dei ragazzi che non hanno responsabilità per la legge vengano puniti in una maniera assolutamente inutile, caricando così le colpe probabilmente della famiglia piuttosto che del sistema scolastico su chi per la legge non ha le responsabilità, e in questo modo non viene aiutato a migliorare ma semplicemente punito in maniera davvero esagerata, in qualche modo staccandogli una palla al piede per tutti gli anni scolastici. Grazie Federico, grazie per questa osservazione. Arriva da Bologna un'altra ascoltatrice invece dalla provincia di Treviso, 800 24 00 24. Buongiorno Bianca. Eccomi. Allora, io ho detto che sono una neolaureata a 81 anni. Complimenti, congratulazioni. In psicologia. Congratulazioni. Dopo un lunghissimo percorso di ugualmente inerente molto strettamente alla psicologia, le storie sono queste. Allora, ho come dire appurato e anche conosciuto e sperimentato che ogni difficoltà di qualsiasi soggetto, piccolissimo, piccolo, molto più grande, dipende certamente, a meno che non sia un minus habens, che allora è da diagnosticare e da curare in altro modo, ma se frequenta una scuola normale, va bene, quello va aiutato ad essere compreso prima, non da se stesso, ma dagli adulti che lo circondano, ovviamente gli insegnanti. Bianca, quindi lei ha detto ogni difficoltà, anche accademica, diciamo, che si trova sulla comprensione di un'equazione o atteggiamento, in realtà va affrontata con un approccio che non sia solo punitivo, ma va compreso perché il ragazzo reagisce così. Ma non, perché non si va alle cause? Se un soggetto ha un po' di febbricola a qualsiasi età, tutti i giorni, costantemente, perché non si va a fondo? Grazie, grazie mille Bianca, neolaureata in psicologia, 81 anni, veramente un esempio di quello che dovrebbe essere il modello educativo, che non si ferma mai. Dottor Matteo Lancini, buongiorno. Buongiorno. Lei è docente di psicologia dell'adolescenza all'Università Bicocca di Milano, ha sentito una neocollega. Sì, certo. Che ne pensa? Ma penso che gli insegnanti e la scuola in generale si trova a gestire delle nuove generazioni, soprattutto per quanto riguarda bambini, ma preadolescenti e adolescenti, con vecchi metodi. E questo bisogna anche spendere, come dire, veramente spezzare una lancia per gli insegnanti, si inventano delle questioni nuove dentro un sistema che in realtà non gli consente anche molta elasticità. Tra queste, diciamo, ovviamente perché ci sono delle novità, le novità sono la scuola di massa, il fatto che la scuola sia un luogo che deve formare più in generale le persone, non solo il luogo della formazione come era in passato, e poi le novità dei nuovi modelli educativi, anche del fatto che appunto le nuove generazioni sono dei nativi digitali. Allora io sono molto contento che si discuta di questa questione della bocciatura, perché come diceva lei il problema non è un buonismo, anzi penso proprio che sia un nuovo modo di essere autorevoli e rigorosi, e così come ormai da 15 anni gli insegnanti si sono inventati la vicenda della sospensione con obbligo di frequenza, perché proprio non funziona più per come funzionano psicologicamente, affettivamente i ragazzi, l'idea di allontanarli dalla scuola per elaborare la colpa e presentarsi il giorno dopo, diciamo, più morigerati rispetto al comportamento inadeguato, anche tutto il sistema della valutazione, che per carità deve rimanere perché i ragazzi vogliono essere valutati, vogliono avere uno sguardo di ritorno sulle loro prestazioni, i loro comportamenti e anche le loro prestazioni didattiche dagli adulti, forse l'idea tra bocciatura o nuove modalità appunto di affrontare la questione, invece bisognerà metterlo in discussione. Certamente sono ragazzi, come noto, più fragili narcisisticamente, cresciuti in modelli educativi infantili. Ma che secondo lei si possono recuperare anche dal punto di vista didattico? Cioè, ci scrive qualcuno, ma se uno non ha capito nulla di equazioni di primo grado, come si troverà poi con integrali e derivate se noi non lo bocciamo? Come fa a capire che deve studiarle di più? Lei che risposta dà, dottor Lancini? Ma guardi, do una risposta che mi sembra emergesse anche dagli interventi precedenti. Siamo davanti a una misurazione di nuovi saperi molto complessi. La questione dei nativi digitali o di chi è cresciuto all'interno di internet, cioè successivamente alla diffusione di internet, rispetto a noi che siamo degli immigrati digitali, non è da poco. A tutt'oggi ci si chiede che cosa serva in futuro, no? ai nostri, diciamo, giovani, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per le competenze. Tenga anche conto che ogni anno che si misura con i nostri strumenti psicologici il livello di intelligenza, il quoziente intelligenza generazionale è superiore delle generazioni, certo, attuali alle nostre. In compenso si è abbassato molto il livello di richiesta delle scuole, come diceva la collega dell'università, l'ascoltatrice che ha chiamato, poi abbiamo più bassi livelli rispetto a quello che ci aspettiamo noi in università. È una questione molto complessa, di sicuro anche l'equazione, siccome non sai le equazioni ti boccio, l'anno prossimo le saprai di più, lei capisce che non è un'equazione di certo appunto utilizzabile. Come diceva la sua collega, andiamo alle cause, perché ci sono ragazzi svogliati che non si impegnano, che proprio sembra non ne vogliano sapere di libri e compiti, che in realtà nascondono un disagio che risiede altrove. Una volta intervenuti su quel disagio diventano studenti eccellenti, e questo è provato. Ma sentiamo diverse voci, perché c'è anche la preside del liceo classico Ennio Quirino Visconti di Roma con noi. Buongiorno, professoressa Clara Rec. Buongiorno. È indignatissima per quello che ha sentito? No, tutt'altro, anzi avrei tantissimo da dire, il tema è appassionante e molto complesso, come è stato detto, e probabilmente, anzi sicuramente, non si può risolvere in due battute. Lei guida, perché, professoressa? Come dice, lei guida? Perché c'è qui la lobby degli automobilisti, premono perché io dia la linea al traffico, e lei, se guida, capirà l'urgenza. Ma ci ritroviamo tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Vero e proprio rock and roll della scuola 1957 per Chuck Berry. Cos'è cambiato da allora? Professoressa Rec, scusi per questa interruzione, è chiaro, ci vorrebbero anni per discutere, infatti molti lo fanno, dell'aspetto pedagogico e degli vantaggi, dei benefici e degli svantaggi di alcuni approcci. Ma questa bocciatura, in sintesi, secondo lei, che tanti ne ha visti di allievi sui banchi, serve a loro può portare a uno stimolo di chi viene bloccato, o invece è solo un trauma, è punitivo e come tale va eliminata dal sistema? Dunque, guardi, io parlo per la mia esperienza che è di circa 20 anni di insegnante e di 8 anni da dirigente. Io ho riscontrato che normalmente, se fatta in un certo modo, serve non soltanto all'interessato, ma anche ai suoi compagni, perché poi va anche visto l'individuo come facente parte di un gruppo che influenza e da cui subisce delle influenze, e anche da un punto di vista sociale. Perché intendo dire questo, io ho sentito molte cose, tra cui per esempio il fatto che bocciatura viene associata ai termini umiliazione, punizione. Mi sembra un elemento pregiudiziale molto pesante. Cioè, se noi usciamo un momento dall'ambito scolastico e, non so, ci riferiamo ad un esame per la patente di guida o ad un esame per la certificazione del FIRST, dell'Advanced, in un istituto privato di lingue, e il fatto di non aver raggiunto il livello previsto e desiderato comporta che non ottieni la patente di guida o il certificato di lingua, cioè non passi ad un livello superiore. Questo semplicemente perché non hai un'attrezzatura adeguata a sostenere le difficoltà future. Quindi, se noi riuscissimo a da una parte sdrammatizzare il tema, cioè è evidente che se noi adulti proponiamo agli studenti la bocciatura come la sconfitta, l'umiliazione, la punizione, loro la vivono in maniera vessatoria e schiacciante per la loro crescita. Ma se invece viene proposta per quello che in realtà dovrebbe essere, cioè a fronte di un lavoro che dovrebbe essere stato serissimo da parte della scuola, perché non ci dimentichiamo che la scuola per decreto presidenziale ha la responsabilità di garantire il successo formativo. Quindi non mi sto tirando Però i indietro. dati dicono l'opposto, professoressa, proprio perché la Cosa? scuola ha il dovere, insomma, di garantire il successo formativo. Se venissero adottati altri metodi, forse ci sarebbe una percentuale di coloro che, vista la dispersione scolastica altissima che c'è in Italia, di coloro che portano a termine questi studi, rivelandosi anche una risorsa per il paese, cioè valorizzando i talenti che a volte in questi, come hanno detto, nativi digitali, piuttosto che ragazzi del 2013, se vogliamo, semplicemente chiamarli così, e sono annidano altrove o non si esprimono esattamente con queste metodologie e con questa didattica che è rimasta molto simile a quella che avevamo noi 30-40 anni fa. I nostri figli fanno spesso nelle scuole italiane le stesse cose, mentre nelle scuole degli altri paesi i padri e le madri non si ritrovano ad avere a che fare con lo stesso schema, con le stesse materie, perché ci si aggiorna in continuazione. C'è chi chiede tra gli ascoltatori come fanno in Canada. Io ritengo le scuole europee, comunque, dal punto di vista didattico, ancora superiori dal punto di vista culturale rispetto a quelle nordamericane per certi aspetti. Sicuramente l'insegnamento di materie come l'educazione civica o il coinvolgimento dei ragazzi in progetti nel quartiere, per cui se non si è fatto un volontariato, il diploma non lo si ottiene, per esempio, sono altri elementi che potrebbero essere discussi e inseriti anche nei curricula italiani. Poi ho visto perfino studenti analfabeti arrivare da campi profughi ed essere inseriti nello stesso anno con i propri coetanei, nonostante fossero completamente illetterati. E alla domanda dei giornalisti: ma come farete? Come fate a inserire un quindicenne che non sa scrivere e leggere in un liceo? La risposta degli insegnanti era molto chiara, quasi stupita: ma sapete quali risorse costituisce questo ragazzo? Quanto ha da insegnare un ragazzo che fino a 15 anni ha vissuto in un campo profughi, anche se non sa fare un'equazione? Sono tutti punti di vista o spunti di vista, come dice la trasmissione. Gennaro, buongiorno. Pronto? No. Buongiorno, anche lei è l'ex dirigente scolastico, immagino l'abbia un po' così, si è un po' scosso da queste discussioni. No, assolutamente, anzi, io sono stato stimolato dalla telefonata della professoressa, quando ad un certo punto ha detto che la professoressa universitaria ha detto che le arrivavano degli studenti Che non sanno impreparati in italiano. scrivere. Ma è la verità, ma in una scuola autoreferenziale dove nessuno valuta nessuno, gli alunni non vengono valutati, i professori non vengono valutati, i dirigenti non vengono valutati, non parliamo degli altri dirigenti poi che stanno a fare i burocrati, gli altri burocrati senza tener conto di niente. Cioè lei cosa propone, al di là della critica, mi scusi? Per quello che riguarda il recupero, è un discorso molto delicato. Il recupero non lo devono fare gli stessi docenti che hanno i ragazzi, ci vogliono delle persone specializzate che devono essere in grado veramente di fare questo lavoro. Non c'è bisogno di avere delle competenze specifiche nelle discipline, è un fatto certe volte più di metodologia di studio, di insegnare ai ragazzi che di competenza specifica nella matematica. Rispetto a questa cosa le volevo dire un'ultima cosa, perché in questo settore tra l'altro i soldi si sprecano, ecco non è vero che nella scuola i soldi non ci sono, i soldi vengono sprecati per cose inutili e non utilizzate per cose utili, ma il tutto risale sempre al discorso della competenza, di come vengono assunti i docenti, queste graduatorie permanenti che non finiscono mai. Ma quindi lei come li assumerebbe? Concorsi, bisogna fare i concorsi ogni 3, 4, 5 anni, e poi valutarli, no? Perché lei ha detto non ci devono essere queste cose infinite, cioè, ci sono oggi delle persone, io ho dato delle supplenze a persone che avevano più di 50 anni, più di 50 anni, sono docenti precari. Sono tematiche che apprezziamo, a cui siamo molto sensibili, a cui abbiamo dedicato però delle puntate specifiche. Ora vorremmo soffermarci su questo tema nuovo, cioè della discussione, della valutazione. Grazie comunque a Gennaro. Diamo la parola ancora una volta all'OCSE, Francesca Borgonovi, per chiederle, ci sono diversi modelli in Europa e non solo, a quali si potrebbe guardare? Faccio una precisazione rispetto prima di tutto alla professoressa neolaureata 81enne Bianca. Come diceva, a meno che i ragazzi non siano minus abens o abbiano dei seri problemi di apprendimento, in realtà tutti i ragazzi possono apprendere a livelli molto superiori rispetto a quelli che stanno mostrando attualmente. Uno delle grosse, non so se dire scoperte, ma una delle statistiche più importanti dell'OCSE è quanto la proporzione di ragazzi che raggiungono dei livelli di competenze elevati vari tra paesi, e purtroppo in Italia, dicendo alcuni ragazzi non ce la fanno, non ce la possono fare, oppure dobbiamo cercare di far loro recuperare quello che non hanno appreso, in realtà si certifica il fallimento della scuola, che non pensa che questi ragazzi possano avere delle competenze di alto livello, e si continua a dire bisogna recuperare. Un modello che guarderemo a quel metodo, un paese, ci dica chi è più virtuoso di noi in questo. Ad esempio la Corea, il Giappone, ma anche restando in ambito europeo, la Finlandia. Lei citava i Paesi Bassi, l'Olanda. In realtà l'Olanda ha il 28% rispetto al 16% dell'Italia di ragazzi che hanno ripetuto almeno una classe. Quindi paesi come la Finlandia, ma appunto la Norvegia. E ve li proporremo in puntate successive. Purtroppo il tempo stringe, dobbiamo salutarci, darci appuntamento a domani per l'ultimo incontro con Spunti di Vista. Grazie a tutti voi e grazie a Alessandro Longoni in regia, Benedetta Acri in redazione, sono gli autori di questa trasmissione. No, in regia c'è Roberto Scaltriti e Gianmarco Ferronato, loro sono coloro che hanno aiutato a pensare quello di cui oggi abbiamo cominciato a discutere. In futuro vedremo. Buona giornata da Irene Zerbini.